Dopo questi avvenimenti, sotto il regno di Artaserse, re di Persia, Esdra, figlio di Sallum, figlio di Zadok, figlio di Achitub, figlio di Amaria, figlio di Azaria, figlio di Merajot, figlio di Zerachia, figlio di Uzzi, figlio di Bucchi, figlio di Abisua, figlio di Pincas, figlio di Eleazaro, figlio di Aronne, sommo sacerdote, questo Esdra salì da Babilonia. Era uno scriba esperto nella legge di Mosè che il Signore, Dio di Israele, aveva dato. Il re gli concedette tutto quanto egli chiese, perché la mano del Signore suo Dio era sopra di lui. Nel settimo anno del re Artaserse partirono per Gerusalemme anche alcuni dei figli di Israele, sacerdoti, leviti, cantori, portinai e oblati. Egli arrivò a Gerusalemme nel quinto mese, era l'anno settimo del re. Il primo giorno del primo mese era stato l'inizio del viaggio da Babilonia, e il primo giorno del quinto mese egli arrivò a Gerusalemme, poiché la mano benevola del suo Dio era sopra di lui. In realtà, Esdra aveva applicato il suo cuore a studiare la legge del Signore, ad eseguire e insegnare leggi e costumanze in Israele. Ecco la copia della lettera che il re Artaserse dette ad Esdra, sacerdote e scriba, esperto nei comandamenti pronunciati dal Signore e nei precetti suoi per Israele. Artaserse, re dei re, a Esdra, sacerdote e scriba della legge del Dio del cielo. Salute, eccetera. Si dà ordine da parte mia che vengano assieme a te tutti coloro che desiderano andare a Gerusalemme fra il popolo d'Israele, i suoi sacerdoti e i leviti nel mio regno. Tu sei inviato da parte del re e dei suoi sette consiglieri per una inchiesta su Giuda e Gerusalemme, secondo la legge del tuo Dio, che è nelle tue mani, per portare l'argento e l'oro che il re e i suoi consiglieri hanno spontaneamente offerto al Dio d'Israele, la cui dimora è a Gerusalemme, e tutto l'argento e l'oro che potrai trovare nell'intera provincia di Babilonia, assieme all'offerta volontaria del popolo e dei sacerdoti, donata per la casa del loro Dio, che è a Gerusalemme. Con questo denaro tu avrai cura di comperare tori, montoni, agnelli e le loro oblazioni e libazioni, e li offrirai sull'altare della casa del vostro Dio che è a Gerusalemme. Quanto al rimanente argento e oro, farete quello che a te e ai tuoi fratelli sembrerà bene, secondo la volontà del vostro Dio. Gli utensili che ti saranno dati per il servizio della casa del tuo Dio, riponili davanti al Dio di Gerusalemme. Il rimanente fabbisogno della casa del tuo Dio, che compete a te di fornire, lo provvederai a spese del tesoro reale. Vien dato ordine da me, re Artaserse, a tutti i tesorieri dell'oltrefiume. Tutto ciò che vi comanderà Esdra, sacerdote, scriba della legge del Dio del cielo, eseguitelo puntualmente, fino a 100 talenti d'argento, 100 corin di grano, 100 battin di vino, 100 battin di olio e sale, senza limitazioni. Tutto ciò che viene da un ordine del Dio del cielo venga eseguito diligentemente per la casa del Dio del cielo, affinché non venga la collera sul regno, sul re e sui suoi figli. Inoltre vi rendiamo noto che non è permesso prelevare tributo, imposta o pedaggio da nessuno dei sacerdoti, leviti, cantori, portinai, oblati e servi di questa casa di Dio. E tu, o Esdra, secondo la sapienza del tuo Dio che tu possiedi, stabilisci magistrati e giudici che amministrino la giustizia per tutto il popolo dell'oltrefiume, cioè a tutti coloro che conoscono i decreti del tuo Dio. A chi non li conosce, voi li insegnerete. Di quanti poi non osservassero il decreto del tuo Dio e il decreto del re, sia fatta rigorosa giustizia, con la morte o con il bando, o con la confisca dei beni, o con la prigione. Benedetto il Signore, Dio dei nostri padri, che a un tale re ha messo in cuore di onorare la casa del Signore che è a Gerusalemme, e mi ha fatto trovare benevolenza presso il re e i suoi consiglieri, e tutti i più potenti principi reali. Così presi coraggio, perché la mano del Signore mio Dio era su di me, e radunai i capi di Israele, affinché partissero insieme con me.